Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il tormento delle figure, un omaggio ad Alda Merini, di e con Elisa Pavolini, regia Mario Schitzer. Gli amori non sono cose eterne e segrete. Gli amori sono cose impossibili, cose che non accadono, cose da niente oppure cose da tutto, che entrano ed escono dalla vagina e che ti violano ripetutamente. Gli amori non hanno sostanza, ma una composizione eterea che passa addirittura dal cuore. Ho avuto grandi amori distruttivi come catastrofi, che mi hanno presa, violentata e poi abbandonata sul greto della vita. Ma che gli amori siano colpevoli o no, è da vedersi. Ed è uno sprovveduto colui che non riconosce che amore è una cosa inventata. Forse non esiste, e se esiste, è senza memoria. Il mio amore a volte assume le sembianze di un critico, a volte di uno scultore, altre di un mezzano. Perché il mio amore ha facce diverse. Il mio amore è senza confini. Il mio amore non indietreggia mai. Il mio amore è come un albero senza corde. Il mio amore è anche un mandolino infinito. E il mio amore è il tempo delle fragranze e il vento della nostra adolescenza. Perché noi, tutti, abbiamo un bambino nel cuore. Bambina innamorata, stanotte ti ho sognata, sul cuore addormentata, e sorridevi tu. Era lo scorso inverno, a Capodanno. Scesi in strada molto presto, faceva un freddo terribile. Ero uscita di casa per cercare un uomo grande e grosso che andava sempre in giro accompagnato da un amico con la mano lesta. Sì, un ladro. Dopo la schiavitù del mio appartamento corroso dalla sporcizia, dopo aver atteso inutilmente mia figlia che non era venuta, mi sentivo sola e volevo trovare quell'uomo. Lui, vedendomi, mi scoprì di colpo. Io volevo chiedergli di avere un po' di pazienza perché avevo tanta paura dell'amore carnale, ma non feci in tempo a parlare. La sua bocca, tumultuosa e salina, le sue mani sapienti mi furono sopra. Aveva mani che sapevano pescare le spugne e le perle. Ansimava sopra di me, corrotto dal vino, con labbra che non chiedevano solo l'amore. Lui voleva suggere il miele da me, come un bambino in cerca di latte materno. Ed io lo amai, con tutto il suo infantile bisogno di essere amato. Io, piccola come sono. E lui un gigante alto 2 metri. Ti porterò sulle mie spalle. I titani reggono la terra e la terra regge la primavera. Io, piccola primavera, non potevo dare fiori, ma avevo bisogno del mio titano. O forse era soltanto la mano assassina che desidero. Titano mi ama, lo so, mi ama perché non mi capisce e come tutte le persone che non comprendono crede che io sia lì, in quei pochi centimetri di pelle che coprono la mia anima. E mentre lui mi ama, io sono altrove. E questa mia assenza lo eccita, perché così fanno le prostitute. Si offrono fumando la sigaretta del sogno. Tu non mi hai mai conosciuta. Tu non sai della fanciulla vogliosa che voleva rapire le mele e poi diventa ladra d'amore, ladra di simboli arcani. No, tu non mi hai mai conosciuta. Tu mi hai soltanto raccolta, distesa. Ma io sono la tua anima, perché io sì, ti conosco. E ti ho sempre aperto la porta, sperando che tu fossi il mio tanto atteso assassino. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ogni volto guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti seguirò, ti troverò. Io cerco invano di dimenticar, ma il primo amore non si può scordar. C'è scritto un nome solo in fondo al cuor. Ti ho conosciuto e adesso so che sei l'amor, il grande amor, il vero amor. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Un giorno andai da padre R e mi denudai con forza il petto. Accorsero i frati, accorse anche il padre superiore e io naturalmente fui cacciata dalla chiesa. Denudandomi il petto avevo messo in mostra un mazzo di banconote appena riscossi all'ufficio postale. Così non capirò mai se i frati siano stati sconvolti dal mio seno o dalla pensione degli invalidi. Padre R si appoggiava sempre alla scrivania del convento e mi parlava delle lunghe clausure del corpo. Se io sapessi che tutto ciò serve allo spirito, lo farei volentieri, ma è molto più peccaminoso lo spirito del corpo, e di fatto io e lui, guardandoci negli occhi, commettevamo i più assurdi peccati del mondo. Non occorre toccarsi per essere peccatori. Glielo dicevo spesso. Il corpo taceva e la mente fioriva come un oleandro immenso. Io passavo e ripassavo le tue mani quiete sul mio povero corpo. E tu? Tu quale amore mi hai offerto se non quello di non avermi mai amato come donna? Io divoro me stessa nella mia casa perennemente assediata dai sogni. E nei miei sogni, amore mio, tu mi ricordi un figlio. Se potessi laverei i tuoi piedi con i miei lunghi capelli addolorati. Io ho tanti figli al mondo, un figlio per ogni lacrima. Vuoi essere la mia lacrima pura? Mi sono domandata spesso se si potesse peccare di castità. Certo, niente è più peccaminoso della castità, quindi tu eri casto e un grande peccatore, e quindi, poiché non ti ho avuto, ti ho avuto un'infinità di volte. Io lo so che tu sei un buon cattolico, e io lo sono del pari, ma devo dirti che io la religione la vivo e la gusto in chiave poetica, il che la rende molto più interessante e assai più libera. In me non esiste l'idea del peccato, e il senso di colpa è tutt'altra cosa. Vivere, amare, possedere ciò che ci piace non è peccato, è semplicemente un nostro diritto sacrosanto. Io conosco le tue pene, i tuoi sguardi, i tuoi patimenti. Conosco le tue ubriachezze segrete, i tuoi sandali e i tuoi piedi, le tue mani forti e muscolose. Udivo i tuoi sogni sopra la mia pelle, ora dopo ora, e gemevo contro le pareti, tenendo le gambe strette contro di te, magnifico avvoltoio. Vedi, qualche momento fa ero nel letto, presa dalla mia solita languidezza, e ho provato, lo dico senza vergogna, ho provato a toccare il mio corpo. Ho capito che ciò che mi sarei aspettata era una povera illusione. Il mio corpo era lì, morto, insensibile, incapace di vita. Credimi, amore mio, né gli animali né i pantani hanno mai sporcato gli angeli. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passion, l'amor non sa tacere, e questa è la canzon di mille capi nere. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capi nere. Ho un letto molto voluttuoso, come quello di Messalina, dotato di ben 6 materassi ereditati dalla sorte. Tutti concupiscono il mio povero letto, che è grande e disordinato, ma estremamente pacifico. Però in quel letto l'amore non si fa, perché inevitabilmente i materassi si dividono e l'amante di turno cade nel mezzo, senza riuscire a liberarsi dal lenzuolo che finisce per avvolgerlo come una specie di sudario. Chissà cosa fa quella lì di notte! Niente. Trasporto materassi dopo che l'aspirante amante se n'è andato via sbattendo pesantemente la porta. Guarda, guarda, guarda il bel pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamidato, va passeggiando per il park con un'aria molto chic, molleggiando dolcemente il frac. Sotto al chiar di luna va a cantar la serenata, dove fa la nanna la pinguina innamorata. Oh, bella figlia dell'amor, schiavo son dei vezzi tuoi, io son tutto tuo se tu mi vuoi. Il barbone era lì, davanti alla chiesa di San Giulio. Stava con altri 3 appena dimessi dalla galera. Erano tutti malridotti, ma il mio di più. Era piccolo, come me. Teneva in fresco nella fontana della chiesa il suo vino giornaliero. Andava a pescare la bottiglia ogni mezz'ora e mi diceva: «Bevi, va, tanto è agosto». Guardandolo, pensavo alla leggenda del santo bevitore, che voleva arrivare a Santa Teresa, ma fermandosi a bere davanti ad ogni osteria, santo non diventava mai. Un giorno lo guardai e gli dissi: «Se vuoi, faccio l'amore con te». Lui mi guardò e mi rispose: «Ho un bel sacco a pelo». Finimmo nel sacco, naturalmente senza combinare niente. Passarono le contesse, che mi guardarono con schifo e con ribrezzo. E allora lui mi portò a fare l'amore sui prati, allo scoperto, in modo che tutte lo potessero vedere. Le contesse nella mia vita sono state come i manicomi. Mi hanno spaccata in 2, contesse di qui, contesse di là, tutte svenevoli, agrodolci, incartapecorite, infiorettate e con tante graziose velleità d'amore verso i giovani. Un giorno Il mio barbone mi disse: «Quando passa da queste parti una fanciulla piccola e svelta come te, io torno indietro negli anni e penso a Concetta, la mia Concetta. Per lei un giorno sono finito in galera. Per lei adesso sono qui a chiedere l'elemosina davanti a San Giulio. La mia Concetta è morta di cancro. Se me l'avessero detto, l'avrei curata io, con il mio alito. L'amore non è una cosa fraterna, è una cosa che viene dal dolore. Ed io la mia Concetta la amavo, e se anche lei fosse stata adultera, il mio amore sarebbe bastato a redimerla. Ma queste cose la legge non le capisce. Tutti gli amori, Concetta, sono poveri, proprio tutti. Gli amori sono come i frati che vanno a mendicare, e i mendicanti sono degli innamorati sereni che si dimenticano della realtà. Ed è per questo che un giorno presi in mano una pistola e sparai ad un povero imbecille che mi aveva provocato perché non sapeva cosa fosse l'amore. Ecco la storia che mi porto addosso da anni, assieme al mio ergastolo. Ma non mi pento mica, perché la mia pistola in realtà aveva un fiore. Quella pistola non ha sparato una pallottola nera, ma il giglio del mio canto, il mio ultimo canto d'amore. Ma il papà della pinguina esce con la scopa in man. Lascia star la mia bambina, via di qua, oh marran. Quatto, quatto, quatto, il bel pinguino innamorato, con il cuor trafitto si allontana disperato. Poi, nella notte, s'ode un clic sopra il pack che ha fatto crack. Si è sparato il bel pinguino in frac. Chi ha detto? Marito mio amabilissimo, chi ha detto che sei stato angoscioso, solitario e inutile? Chi ha detto che non ti ho amato, che non ti ho cercato e che non ti ho aspettato? E chi credi che abbia aspettato davanti a quella grata immensa per 10 anni, se non te? Ogni sera, accoccolata per terra, anche se sapevo che non saresti mai venuto. Perché le donne innamorate sanno tutto. Anche che a casa un marito solo e sconsolato piange per il rimorso. Lo so, tu hai pianto per 10 anni, leggendomi dentro. Tu, uomo senza cultura a detta di tutti, eri il più sapiente di tutti. Quanti risotti abbiamo fatto io e te? 2 anime giocherellone come le nostre, sempre vitali, persino stupide, ma totalmente innamorate. I tuoi amici ti chiamavano poeta di corte, facendo riferimento a me. Tu li hai conosciuti tutti i poeti, e a tutti hai fatto il caffè. Arrivavi con il tuo vassoio limpidissimo davanti a questi grandi che non ti guardavano nemmeno e si rivolgevano a me in tono enfatico. Tu li ascoltavi, continuando a fare pulizia attorno a loro. Dopo 2 ore di questo ignobile trattamento, stanco di starli a sentire, con un magistrale colpo di reni dicevi in faccia a tutti: «In fondo mia moglie è solamente una stupida». Un giorno, mentre Ettore, assiderato dal freddo del suo male, moriva, sperando nella vita, una voce sottile, malinconica, ingenua, mi giunse dal telefono. Ero così rarefatta dalla fatica che mi sembrava una voce proveniente dall'aldilà. E veniva, infatti, dall'aldilà, come tutte le voci dei poeti, che si ingroppano, si svincolano, si amano, si concupiscono e si diseredano con atti notarili che consegnano direttamente a Dio. Ho un sassolino nella scarpa. Ai, che mi fa tanto tanto male. Sbatto il piede giù, sbatto il piede su, giro, mi rigiro, sembro Belzebù. I miei amori sono stati grandi come la morte. È inutile dire come li ho concepiti. A volte è bastato un sorriso, a volte un tono profondo. Ci sono donne che concepiscono i figli con poca fatica, per predisposizione uterina. La mente è così, all'utero basso, e basta un sorriso o un'assenza perché lei concepisca un figlio. Io ho già concepito figli degeneri, figli gialli, viola, rossi, scarlatti, figli gobbi e storti. Ho concepito il manicomio. A suo modo il manicomio è stato un grande figlio, purtroppo un figlio stupido, che si è laureato in legge. Ho un sassolino nella scarpa, che mi fa tanto tanto male. Sbatto il piede giù, sbatto il piede su, giro, mi rigiro, sembro Belzebù. Un giorno, presa da una crisi profonda, tentai di morire con del chinino. Ricordo che quando le mie condizioni erano oramai disperate, vidi, e dico esattamente, vidi davanti a me l'immagine della morte. Così, come la si dipinge, un'immagine terrificante. Bastò quella visione a darmi la forza di sopravvivere. Bastò quella figura a tenermi lontana per tutta la vita dalle idee del suicidio. Gli antichi iniziati venivano messi a contatto con la morte prima di proclamarli tali. Ma se la morte viene da sé, ma perché continuare a cercarla? Non è forse il bene massimo della vita, l'illusione più chiara e più sicura? Io vorrei essere presa dal sesso come da una cosa ineluttabile, da una formidabile magia. Ma tutto ciò che vi compare dentro, tutti i desideri, sia attoniti che stupefatti, non fanno che cambiare questa dolcezza in altrettanto veleno. Come vorrei morire! Ma in modo completo, piena di fede, di fervore, di bellezza. Vorrei morire, supplicando il respiro di non abbandonarmi. Vorrei morire come se mi abbandonassi sull'erba, in un atto d'amore. Ma ciò non è possibile. Io ho sete della mia libertà, e la libertà è altrove, nell'amore, nella gentilezza, non so dire altro. Se parlo di mio figlio provo orrore. Sono sicura che quando mi aprirà le viscere con violenza e vorrà vedere a tutti i costi quest'orrida luce, io proverò una grande pietà e impazzirò del tutto. Penso che io stessa, che mi sento così magica e pura, avrò orrore a tenerlo fra le braccia. Eppure, quanto ho pianto su questo piccolo essere. Quanto lo amo. Quanto vorrei porgerlo a due braccia buone, tranquille. Quanto vorrei che avesse una madre. Stasera ho incontrato un vecchio. Era scarnito, completamente pazzo. Mi guardava con due occhi supplichevoli e mentre mi prendeva la mano mi ha detto queste parole. Signora, quanto rispetto mi ispira la sua faccia, come vorrei darle un bacio. E allora io gli ho dato la mano e lui me l'ha baciata con la stessa riverenza di un cavaliere antico. E poi mi ha detto altre cose buone e dolci. Poteva avere 70 anni. Aveva lo sguardo completamente allucinato, ma mi ha fatto piangere di tenerezza. E ho capito che aveva un'anima pura, quel vecchio. Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite e tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora e non più. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi nel vento con le rose. Tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli. Finch'io vivo sarà vivo in me solo per te. B era un solitario, era un ateo dal desiderio. B era pioggia, era panico, era un processo, era la desolazione umana più assoluta. Era uno di quegli uomini che Dio abbandona volentieri, perché gli sono cari. Le sue ginocchia deboli e scricchiolanti nascondevano il suo interiore smarrimento. Non mangiava che se stesso, quindi era magro e scalzo come un monaco. B aveva paura di me. Aveva paura di innamorarsi. E anche io l'avevo. Perché l'amore avrebbe distrutto il nostro scrivere. B era uno in mille e soprattutto cercava di non sognare, perché il sogno, bene o male, è speranza. Ci incontravamo a volte al Chimera. Al Chimera si poteva fingere di rammaricarsi e spostare i mobili in continuazione nello spazio dell'anima. A me sembrava di tornare agli esordi del mio pensiero, quando vendevo mobili rococò. Gli alberi mi sono sempre piaciuti e quindi più tardi mi piacquero i tavolini, tutti i mobili e tutto ciò che potesse essere arredamento, ma anche ai confini del verde. La comparsa di B metteva misteriosamente in fuga gli spettri. A volte, tornando a casa, mi addormentavo accanto a lui, vestita con un paltò, in un letto che non sentivo mio. Mi svegliava il gracchiare del corvo, ed era l'ora del male. Il corvo chiamava, il corvo voleva la sua Berenice. Odiavo e mi meravigliavo del corvo. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianto, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita, far gioire il cuore. Vivere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Sì, io ho avuto molti amori, o perlomeno me ne hanno attribuiti molti. Ma l'amore è una cosa misteriosa, strana e sospetta, e la donna raramente ne vuole parlare. Ed io sono una donna, con tutti i carismi e le paure che una donna può avere. Io sono una povera donna, perché bisognosa d'amore. Da bambina sognavo di fare la mendicante e andavo dietro casa a chiedere l'elemosina. Esistono amori personali? Credo di no. L'amore è una soluzione atmosferica. È iodio e potassio. È delirio. L'amore certamente accresce i lutti e alimenta le passioni, capovolge, distoglie, azzera. E allora io ho avuto tanti amori e li ho azzerati, magari con un sorriso, una pausa o una distrazione. Io sono malata di tempo musicale e nelle mie sospensioni cosmiche vanno a morire i miei amori. Dentro la musica li ritrovo tutti quando accendo la radio. Ci sono ciottoli che si inframettono in mezzo alle onde e ne determinano il delta. E i delta a volte sono angosciosi, come due stanche braccia che chiedono aiuto al fiume. Io e lui. Io e lui abbiamo passeggiato per le rive forti e ridondanti del Naviglio per ben 3 mesi. Mano nella mano, guardando il cielo stellato e ripetendo insieme i bei versi di Eliot. Così andiamo tu ed io. Quando la pioggia si stende sopra un tavolo, come un paziente in preda alla narcosi. Abbiamo girato e rigirato per le rive del Naviglio la sera, piene di musica, di allegria, buie, cercando le vie limitrofe, i posticini solitari, senza dire nulla, senza fare nulla. Poi quei 3 mesi caldi e terribili finirono. Qualcuno me lo aveva strappato. Qualcuno più forte, più ridente, più generoso di me. Qualcuno più giovane di me. L'amore non è una cosa facile. L'amore è una cosa rubata. Lui era venuto una notte, silenzioso e assorto come un ladro, che chiede di essere confortato più che amato. Ed io lo avevo accolto, con le mie mani piene di lacrime e di passione. Era bello e pareva redento. Era colto e pareva disposto a dare la sua cultura. E invece voleva uccidermi. E per uccidere una donna non c'è che una maniera: legarle addosso il rimorso a vita e non concederle la parte essenziale dell'amore. Era alto d'aspetto, con delle belle tempie brizzolate. Era aperto a tutti i dialoghi e quindi forse a nessuno. Con l'aria di chi vuole spogliarti, saliva dai miei piedi lungo le cosce e con uno sguardo penetrante e finissimo abbracciava il mio corpo. Era un caldo pensiero d'amore. Io quel pensiero lo sentivo fino nelle più intime fibre e diventava desiderio e spasimo. I miei creditori, gli aguzzini infami del firmamento poetico, vengono alle porte e chiedono insaziabili la loro mercede. Ma io non ho da dare loro. Io ho soltanto i coltelli amari della mia impudicizia. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Il poeta è quasi sempre lurido. È povero per vocazione, è povero perché questo gli consente di essere libero. Il poeta è un gran dissidente, ma anche un grande amatore. Un giorno, per via di questa mia vocazione amorosa, contattai un tizio, non era bello. Anzi, pareva schiacciato da una sorta di cattiveria. La stessa cattiveria di chi ha subito del male. Ma non se ne vuole disfare. Anzi, se lo tiene dentro per divorarlo e masticarlo giorno dopo giorno. C'è gente che rumina il dolore e ne fa la propria prigione e il proprio deciso sentimento di vita. Quell'uomo venne da me ed esaminò il televisore. Il suo sguardo andava dal televisore al mio corpo seminudo. Era un pomeriggio d'agosto. Io compresi il suo sguardo e volli esaudirlo facendo l'amore. Poi se ne andò e non ritornò più. E adesso lo stringo soltanto nel ricordo di quell'unico incontro, di quell'unico disfacimento a due. Non lo vidi più, ma in quel rapporto d'amore, che pareva una lotta e un rapporto di rabbia, avevamo bruciato entrambi una figura di sogno. Faccetta nera, piccola abissina, ti porteremo a Roma liberata. Dal sole nostro tu sarai baciata, sarai in camicia nera pure te. Faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando saremo vicino a te. Noi ti daremo un altro duce, un altro re. Le poetesse che si sentono tanto importanti non sanno che il duce mi ha amata. Benito Mussolini era allora all'apice della gloria, non alto, ma tarchiato e solido, con l'elmetto ben calato sulla fronte che gli copriva le tempie. In un giorno di maggio, per chissà quale terribile abbaglio, Benito Mussolini mi prese fra le braccia. Io avevo 5 anni. Noi figlie della lupa eravamo costrette a delle levatacce oscene per andare a imparare l'inno nazionale. E quel giorno, quando fecero l'alza bandiera, il tricolore enorme mi cadde pesantemente addosso, travolgendomi assieme a 5 mie compagne. Urlavamo tutte come dei fantasmi. Così Benito Mussolini pensò bene di venirmi a cercare nella bandiera. Mi trovò, mi sollevò e mi strinse al petto. Il suo elmetto mi trapassò il ventre, producendomi la prima ecchimosi d'amore. Così spaventosa che ancora oggi ne sento i postumi. Quell'elmetto lo vedo nell'aria ogni volta che bacio un uomo. Da bambina, nell'adagio della mia infanzia, dove c'era la barca felice dei giochi, ci fu un uomo che violò la mia grandezza di bimba. Era un uomo onnisciente, un uomo che sapeva tutto. Io nascondevo la mia timidezza dentro un'enorme cartella di cuoio, dietro un'enorme quantità di libri. Dell'infanzia ricordo questo. Forse quel pomeriggio avrei letto Biancaneve, Cenerentola o Pollicino. Avevo già preparato le mie 3 favole preferite in un angolo della cucina. Forse, chissà, quell'uomo vide la mia solitudine, tanto che adoperando un cappotto lungo e sdrucito, un giorno mi rapì. Per poche ore soltanto, ma mi portò talmente lontana che io non riuscii più a tornare. Ricordo una bambina piccola, torrida, vestita sempre di nero. Una mattina questa bambina venne rapita dal diavolo. Il demone, irsuto e grigio. Il demone era irsuto e grigio, ma era anche tragico e affascinante. E poiché lei amava la tragedia, lo amò disperatamente. La bambina si sentiva colpevole perché stava ore ad accarezzarsi allo specchio. Da piccola pensavo di essere stata venduta ad una tribù di nomadi stranieri che non mi capivano. Io avrei voluto danzare e leggevo avidamente scarpette rosse senza capire che le scarpe possono diventare magiche e costringerti ad una lunga ed impenetrabile danza di felicità. Forse quella bambina ha perdonato l'uomo che l'ha presa. O forse no. Io so soltanto, nella mia solitudine, nel mio silenzio, di volergli un po' di bene. Quando lui morì e un altro uomo venne da me, io rimasi turbata e non capivo più che cosa volesse dire essere vivi. Mi dissero che chi ha vissuto più volte deve morire più volte. E allora io sono morta ogni volta che un uomo mi ha toccata e baciata. Io non sono stata marchiata dai manicomi, ma dall'amore. Un amore che mi è piovuto addosso come una cosa grigia e tremenda. Un amore che era una voragine, in cui un uomo mi aveva sussurrato invece che preghiere, cattive parole di amore violento. Ma l'amore no. I miei amori cominciano nei tempi futuri. L'amore mio non può. I miei amori non sono mai esistiti. Dissolversi nel vento con le rose, perché loro non ne sapevano niente. Tanto è forte che non cederà. Oppure non ne sapevo niente io. E ci siamo amati in silenzio e in tempi diversi. Non sfiorirà. I veri amori sono dei sogni, sono dei parametri di poesia, sono delle invenzioni. Ma l'amore no, l'amore mio non può. Se questo o quell'altro uomo siano veramente esistiti, disperdersi con l'oro dei capelli, se abbiano toccato la mia carne. Finch'io vivo sarà vivo in me. Questo è un fenomeno secondario. Solo per te. Il tormento delle figure, un omaggio ad Alda Merini, di e con Elisa Pavolini, regia Mario Schitzer. L'agenda della settimana teatrale. Davide Nia sul suo spettacolo Maggio 43 a Roma, Teatro Argentina, giovedì 17 settembre 2020. Davide, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno. Lo descrivi a chi ci ascolta? Maggio 43 è uno spettacolo che risale come debutto al 2004, o se nel 2003, che racconta dei bombardamenti del 43 che subì la città di Palermo, soprattutto poi in quello gigantesco del 9 maggio, il tutto visto con gli occhi di un ragazzino di 12 anni, che è colui che processa quello che accade in questa famiglia, cioè lo sfollamento, andare in campagna per scanfare le bombe e tutte le tecniche di strategie di sopravvivenza quotidiana che vengono reinventate. Questo è Maggio 43. Com'era nato questo lavoro? Dal fatto che io sono di Palermo e continuavo a vedere una città che ostentava senza nessun pudore quelle che erano le macerie dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ero convinto che questo fosse normale. La prima volta che ho visto Palermo è stata quando sono tornato dopo un'estate che avevo passato all'estero, a Londra, e ho scoperto che non era normale che le altre città avessero i resti dei bombardamenti del 43, perché era stato ricostruito. E quindi ho iniziato in qualche modo a osservare questa lacerazione che restava sul cielo, ma il centro storico ancora non è stato interamente recuperato, quindi è ancora leggibile la dinamica di quel bombardamento, soprattutto quello del 9 maggio, e ho iniziato poi a collegare tutti i racconti che ascoltavo da parte degli nonni e degli zii, e sistematicamente i racconti di quella generazione lì erano i racconti della guerra. Poi ho iniziato a intervistare persone che erano, insomma, sopravvissuti alla guerra, che avevano vissuto quei bombardamenti. L'aspetto anagrafico era interessante, cioè le persone che intervistavo io, per forza di cose, erano stati ragazzi allora. Quindi i racconti erano pieni di desideri, erano pieni proprio di ormoni. In qualche modo, proprio nei loro racconti, quella che era la durezza della guerra veniva stemperata da quello che accade all'essere umano, che ci adattarsi in tutto, e nonostante ci sia l'orrore della guerra, l'essere umano continua a desiderare, a cercare il romanticismo, a volere mangiare nella migliore maniera possibile, a cercare il conforto con ciò che è attorno, ecco. Dalle parole che dici, questa testimonianza delle macerie, dei ruderi, sembrano più una memoria involontaria. La memoria è involontaria nel momento in cui uno si appropria pienamente all'esperienza altrui. La memoria diventa un tentativo di riflessione sul presente, se si comprendono che determinate dinamiche possono traslarsi ed essere attualizzate per le contemporanee. E mai i tempi di maggio 43, come fin allora lo dichiaravo, erano cinici, erano pari e assomigliano a oggi. Poi possiamo capire dov'è che arrivano le bombe, dove arrivano i bombardamenti, ragazzi, si continua a morire sul posto di lavoro. La memoria storica, per come l'hai raccolta, come è vissuta oggi? Non lo so, c'è sempre un sistematico stacco dall'esperienza che si è vissuta, dal modo con il quale è stata processata o non era stata processata. Ci sono delle dinamiche che continuano a ripetersi, probabilmente è più rassicurante la ripetizione della dinamica che tentare di scardinarla. E estremizzando il discorso, direi che una delle attività della memoria più inutile che abbiamo, perché si continuano a non imparare mai dagli errori. In qualche modo scatta un meccanismo per il quale si spera che stavolta nell'errore vengano fottuti gli altri e non io. La memoria però non è mai qualcosa di neutro, bisognerebbe essere in grado di negoziarla sistematicamente. La memoria è selettiva e quindi il modo con il quale essa viene organizzata, raccontata e riferita già indica una autorialità anche del soggetto che ne indirizza verso una direzione o un'altra, quella per la destinazione, nel senso del discorso. Bisognerebbe studiare, come tutto, ma studiare questa fatica, e c'è chi vuole rinunciare a questa fatica per avere delle risposte più immediate, più concilianti. Queste tue parole sembrano accertare che c'è un problema del tramandare in generale. C'è un problema gigantesco che riguarda innanzitutto la fonte che tramanda. Quando noi ascoltiamo o quando noi leggiamo, nell'elaborazione della memoria, la vera domanda che dovremmo sistematicamente farci è che cosa davvero sta provando a dirmi la persona che ho di fronte. Quando per esempio c'erano i racconti dei miei nonni, io continuavo a sentire in loro un senso di angoscia che era perfettamente aderente agli anni 80 palermitani che stavano vivendo. Quel senso di angoscia delle bombe che arrivavano veniva sovrapposto a le sparatine in mezzo alla strada della mafia, il fatto che c'era un morto al giorno a Palermo, che abbiamo vissuto una guerra che è stata ignorata per tornaconto politico dalla stampa. E quindi vedevo, questo l'ho capito dopo, riuscivo in qualche modo a intuire che c'era qualcosa di più profondo che li portava sistematicamente a tornare a raccontare la guerra, ed era un modo che avevano quello di nominare il proprio passato, la propria esperienza, per cercare di decifrare quel presente di violenza dentro il quale stavamo crescendo tutti quanti. Quindi il senso dell'operazione della testimonianza sta nel riuscire a comprendere o a mettersi in prospettiva che cosa stiamo recuperando, che cosa ci sta dicendo il testimone che abbiamo di fronte. Maggio 43. A Roma, Teatro Argentina, domenica 26 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Davide Enia. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Tante buone cose, un abbraccio a tutti. Ciao. Davide Enia sul suo spettacolo Maggio 43. A Roma, Teatro Argentina, giovedì 17 settembre 2020. Con Gloria Sapio, curatrice di Portraits on Stage al Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli dal 12 settembre al 4 ottobre 2020. Ben trovata. Salve, ciao. Di cosa si tratta? È una rassegna di 13 spettacoli che si declinano con linguaggi diversi, danza, teatro, performance, musica, che parlano di arte appunto figurativa. Portraits on Stage è anche il nome di una rete che è stata costituita qualche anno fa da delle compagnie che si occupano proprio di questo specifico, cioè hanno nel loro repertorio, proprio perché dialogano con musei, con fondazioni culturali, perché sono in luoghi che sono stati fortemente influenzati dall'arte figurativa, hanno appunto nel loro repertorio spettacoli che parlano di questo tema. Com'è nata l'idea? È nata proprio dal fatto di essersi incontrati con questi artisti, operatori, e la constatazione che ciascuno di noi aveva un proprio pensiero legato appunto all'arte figurativa e che spesso si trovava a svolgere questi spettacoli, anzi cercava proprio di svolgere questi spettacoli in luoghi non convenzionali, quindi non per forza teatrali. Per questo anche il progetto si adatta molto bene allo spazio del Santuario di Ercole Vincitore, che appunto noi usiamo non come uno spazio teatrale tout court, cioè non montiamo un palco, non abbiamo un palco montato, non abbiamo nemmeno le luci perché lo svolgiamo durante il giorno, a parte uno spettacolo sicuramente da segnalare che è la sonorizzazione di Vampir di Dreyer, e quindi fatta da due musicisti, Paolo Spaccamonti e Ramon Moro, che vengono da Torino e che hanno proprio creato questa performance in coproduzione con il Museo Nazionale Cinema di Torino e Pesaro Film Fest, e questa sarà ovviamente di sera perché la proiezione del film di giorno poteva essere problematica, e oltretutto abbiamo avuto una bella occasione perché questa apertura serale, che di solito non sono previste aperture serali al Tempio, è legata all'apertura per le giornate europee del patrimonio, e quindi insomma, abbiamo colto questa occasione, infatti loro saranno alle 20:30, mentre gli altri spettacoli sono sempre sabato alle 17 e la domenica mattina alle 11 e poi di nuovo la domenica alle 17, però sono tutti spettacoli diversi, alcuni di loro sono spettacoli che nascono all'interno della rete, perché la rete comunque cerca di trovare sempre spettacoli che abbiano questo tema, quindi lavoriamo anche insieme a una sorta di scouting. La scelta del luogo? Intanto bisogna dire che è un progetto che vince il bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura della Regione Lazio. Era un bando uscito nel 2018, noi in realtà avremmo dovuto sviluppare il progetto tra aprile e giugno, e naturalmente a causa del Covid non abbiamo potuto fare il progetto e quindi l'abbiamo dovuto rimandare, e per fortuna la Regione ha esteso la possibilità temporale e noi lo facciamo adesso. Quindi il Santuario di Ercole Vincitore è un luogo bellissimo, poco conosciuto. Noi lavoriamo sul territorio, comunque abbiamo legami profondi col territorio di Tivoli, e questo spazio dei beni culturali che poi fa parte delle ville di Tivoli, quindi fa parte della stessa direzione di Villa d'Este e di Villa Adriana, è secondo noi uno dei luoghi più interessanti, che ha una sovrapposizione di archeologia romana ed archeologia industriale, perché nel corso dei secoli è stato adibito alle cose più strane, addirittura è diventato anche una cartiera a un certo punto e una centrale idroelettrica, quindi è estremamente interessante. Abbiamo pensato appunto a questo luogo quando è uscito il bando, perché ci sembrava una location perfetta dove inserire il nostro programma. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Due parole sugli spettacoli, che sono tutti nazionali e internazionali, perché ci sono dei gruppi che lavorano come gli Stalker di Torino, che il pubblico di Roma sicuramente conosce, perché di solito li vediamo nella giornata del Capodanno di Roma, ospiti della manifestazione della Festa di Roma, con le loro performance che appunto creano un ponte tra teatro e altre performative. Il 12 debuttiamo con Pintor de Palabras, che è dedicato alla figura di Rafael Alberti, pittore, poeta, conosciutissimo, eroe della resistenza di Spagna, insomma. Poi non li dico tutti, ovviamente c'è il programma, però segnalo per esempio Canù di Piccoli Dilli, che è fatto da una compagnia di attori che vengono dal Burkina Faso, è uno spettacolo vincitore di In Box Verde 2019 ed è molto interessante perché ci sono anche gli strumenti africani in scena, a parte la storia, che è una storia romantica ma anche molto vicina alla cultura africana. Poi abbiamo la compagnia Situain, che fa Le Acque, Uomini e Dei. Poi abbiamo per esempio un comico di Livorno straordinario, e quindi perché si può parlare di arte anche con ironia e anche ridendo, che fa un Modigliani che è sia poetico che ironico. Ecco, tutto questo comunque è sul programma, sul nostro sito www.settimocielo.net, e i biglietti purtroppo sono due, cioè c'è un biglietto relativo allo spettacolo con un piccolissimo biglietto di 5 euro e poi c'è un biglietto invece che è legato all'ingresso al santuario di Ercole Vincitore, e quello lo si deve per forza acquistare online attraverso una procedura che noi ovviamente spieghiamo quando avvengono le prenotazioni. Purtroppo appunto siamo in un regime di emergenza e quindi bisogna prenotare. I nostri biglietti si possono acquistare sul loco previa prenotazione, i biglietti invece per l'ingresso al santuario sono acquistabili online. Portraits on Stage al santuario di Ercole Vincitore a Tivoli dal 12 settembre al 4 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Gloria Sati. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, alla prossima. Ciao. Con Gianmaria Cervo, direttore artistico della 24esima edizione del Festival Internazionale di Teatro Quartieri dell'Arte a Viterbo dal 2 settembre al 5 novembre 2020. Gianmaria, ben trovato. Buongiorno, grazie. Raccontiamo cos'è questo festival. È un festival che, nonostante l'emergenza Covid, prima di tutto c'è e ha anche salvaguardato le sue linee programmatiche, anche se poi inevitabilmente i bilanci interni delle drammaturgie che avevamo in cantiere ovviamente sono stati rivisti, alcuni eventi sono stati cancellati e sostituiti, ma sono molto lieto di poter dire che le linee programmatiche sono state mantenute e che il nucleo centrale degli eventi del festival è stato preservato, e anzi alcuni eventi hanno risposto in maniera eccezionale alla sfida posta dalla situazione Covid, per cui sono andati a finire in territori assolutamente inaspettati. Il festival quest'anno doveva essere incentrato sui Caravaggeschi, lo è, e potremmo dire che ci sono drammaturgie barocche a tema barocco che poi però inevitabilmente finiscono in riflessioni sulla nostra contemporaneità, e drammaturgie barocche carnevalesche che invece affrontano a muso duro, direi, in maniera molto diretta la nostra società, la nostra contemporaneità. Devo dire che cambiando, facendo evolvere le drammaturgie, le abbiamo molto radicalizzate nel senso della transdisciplinarietà, per cui è diventato veramente fondamentale l'apporto per esempio di artisti visivi, di compositori, di storici dell'arte, di esperti, e abbiamo creato una serie di prodotti che sono degli ibridi

che proprio nel 2020 diciamo compie i 70 anni, sono 70 anni dalla nascita del primo progetto e proposta istituzionale, no, che diciamo rappresentato dalla dichiarazione Schuman, che c'è stato il 9 maggio del 1950, e questo numero cerca in qualche modo di reinterpretare anche quella stessa data per promuovere, proporre uno sguardo sull'Europa e sul progetto di integrazione europea che vada un po' oltre i canoni che sono spesso, come dire, assunti sia nella storiografia sia nel dibattito pubblico, in cui si parla di integrazione europea solo a partire da quella data. Noi nel numero proviamo ad allungare e ad approfondire lo sguardo, proviamo a raccontare il progetto intrecciato alla storia anche del capitalismo, diciamo, occidentale. Proviamo a raccontarlo non come un processo lineare, ma come un processo che è stato puntellato anche di lotte, di contrasti e di rotture, e lo facciamo nello stile di Zapruder, producendo una prospettiva che analizza il tema in modi e insomma in modalità diverse, anche proprio da un punto di vista non solo, come dire, di approfondimento accademico, diciamo, ma anche imponendosi all'incrocio tra una prospettiva appunto di analisi storiografica, ma anche di una prospettiva, diciamo, militante, perché come è lo stile di Zapruder, è una storia della conflittualità sociale che è raccontata spesso dal basso, quindi insomma cerchiamo di porci con questi obiettivi nell'ottica di raccontare una storia un po' diversa dell'integrazione europea. Due sono i macro temi sempre presenti nell'attualità: uno, le strettoie economiche della dirigenza europea, e dall'altra la fortezza per quanto riguarda il flusso di migranti. Sono temi che toccate anche voi? Assolutamente, partendo dal titolo, Finis Europae, è un titolo che gioca appunto col termine latino finis, che significa sia appunto fine, termine, no? Quindi per chiamare la crisi dell'Europa, il potenziale collasso anche del progetto europeo di cui molto si è parlato e molto si continua a parlare. In realtà, una parentesi, noi questo numero l'abbiamo chiuso e mandato in stampa a gennaio 2020, quindi poco prima, insomma, dello scoppio della pandemia, quindi non comprende il Covid come tematica e le conseguenze che ne ha portato anche a livello europeo. Però, dicevo, il titolo gioca sia col significato del termine finis, appunto inteso come fine e termine, sia per richiamare il significato di confine, e quindi per cambiare un po' anche i rapporti che l'Europa sempre, insomma, ma in particolar modo nell'ultimo decennio, ha avuto con i suoi confini, e dunque le cosiddette crisi migratorie, di cui nel numero parliamo molto ovviamente, a partire da un articolo della sezione principale di Lorenzo Vianelli che si intitola Proteggere o controllare il sistema europeo comune di asilo nello spazio Schengen. Ne parliamo anche nella rubrica Immagini, che è una rubrica concentrata sulle immagini più che sul testo, dove c'è un reportage fotografico di Valerio Muscella sulle frontiere d'Europa, sui confini che bloccano, cercano sempre di bloccare i flussi di migranti, perché le merci invece possono passare sempre. Ma ne parliamo anche nella sezione interventi con un articolo di Giulia Sezzi, che è un'attivista dell'esperienza di Mediterranea, in un articolo intitolato Il mare non dimentica nulla, parla di questa iniziativa che ha ormai quasi 2 anni. L'altro aspetto che, come dicevi giustamente tu, intreccia molti articoli del numero, è l'aspetto economico. In particolare approfondiamo questo aspetto sia io e Roberto Ventresca, che è l'altro curatore del numero nell'editoriale, sia in alcuni articoli, come ad esempio un articolo di Francesco Petrini, un articolo a cui personalmente tenevo molto, che racconta l'integrazione europea intrecciandola appunto alla storia del capitalismo, dunque superando di nuovo una sorta appunto di retorica, come dicevo all'inizio, presente nella storiografia e nel dibattito pubblico, no? Secondo cui le varie comunità europee degli anni 50 sorsero per la voglia di pace che pervadeva il continente dopo le due guerre mondiali. C'era anche questo, ma piuttosto appunto Petrini analizza il lungo percorso che ha portato alla formazione del insomma, del primo nucleo comunitario, no? La Comunità Economica Europea del Carbone e dell'Acciaio, cioè la CECA, appunto, del 1950, e però mostra anche la spinta del grande capitale affinché sul continente si creasse un grande mercato integrato, no, utile sia agli Stati europei sia al grande sponsor di questa integrazione, che sono stati appunto gli Stati Uniti, che furono grandi sostenitori di quel progetto. L'aspetto economico è ovviamente affrontato anche in altri articoli del numero, ad esempio Massimiliano Guareschi, che è sempre un articolo della sezione principale sia nel Zoom, affronta la grande tematica europeista versus sovranismi, è affrontato da un articolo più, diciamo, concettuale, teorico, di Olimpia Malatesta, che parla dell'ordoliberalismo alla base del progetto di integrazione. Quindi sì, è un numero molto ricco, ha 16 contributi diversi, ma che appunto da diverse prospettive cercano di affrontare un'analisi dell'integrazione europea appunto inedita in qualche modo. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Il numero si può ordinare sempre dal sito del progetto Zapruder, che è storieinmovimento.org. Zapruder, per insomma chi non lo sapesse, è un progetto che l'anno prossimo in realtà compie 20 anni, nato a Genova, nelle giornate di Genova del 2001, che appunto finora ha prodotto 52, perché chiaramente il numero di sull'Europa è uscito un po' in ritardo a causa Covid, ma abbiamo deciso come collettivo di non spedire le copie in tempo, anche per solidarietà alle lotte di lavoratori nella logistica che si sono sviluppate nei mesi della pandemia di quest'anno. Perciò insomma quel numero è uscito un po' in ritardo, e nel frattempo qualche giorno fa è uscito anche il numero 52 di Zapruder, che si intitola L'ordine del discorso. In ogni caso appunto è un progetto di storici e di storiche, di attivisti e di attiviste che si pongono sulla soglia, no, dell'attivismo e della ricerca scientifica per produrre una serie di numeri appunto che affrontano varie tematiche, sempre attenti a questa prospettiva. Zapruder, oltre che il sito, come dicevo, ha anche un terzo ramo che è Zapruder World, che è un'altra parte del progetto in inglese, con uscite annuali, un numero all'anno, sempre diciamo con le stesse prospettive, con gli stessi principi, ma dispone in un'ottica internazionale. Le presentazioni le riprendiamo mercoledì prossimo a Bologna, l'ex centrale, in presenza, chiaramente per quanto possibile rispettando i principi della salute e della reciprocità nella cura, cercheremo di fare il più possibile adesso presentazioni in presenza, appunto proprio per promuovere questo progetto che l'anno prossimo ai suoi 20 anni uscirà, tanto anticipo, con un numero speciale su Genova e sui 20 anni dei giorni di Genova del luglio 2001. Zapruder 51, Finis Europe, all'ex centrale Bologna, mercoledì 16 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mattia Frapporti. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie a te, un saluto a tutti, a presto.